con alta eterna man reggi il destino, e a cui gli arcani già tutti son noti. Nelle mie preci ascolta i comun voti.